Benvenuti alla tappa Trocia! E siccome pensano che Trocia hanno sempre le pagliette, le piume e il sorriso stampato in faccia, noi siamo particolarmente incazzati e non ci avremo né pagliette né piume, ma siamo solo molto arrabbiati. Cominciamo con un pezzo di Mario Vieli. Secondo Freud, il bambino è costituzionalmente qualificato al polimorfo perverso. Tutte le cosiddette perversioni fanno parte della sessualità infantile. Il sadismo, il masochismo, la coprofilia, l'esibizionismo, il voyeurismo e l'omosessualità. In effetti, la disposizione alle perversioni è l'universale disposizione originaria della pulsione sessuale umana, dalla quale si sviluppa un comportamento sessuale normale in seguito a mutamenti organici e inibizioni nel processo di maturazione. Tra le potenze inibitorie che limitano la direzione della pulsione sessuale stanno fondamentalmente le impalcature sociali della morale e dell'autorità. Secondo la società repressiva e la morale dominante considerano normale soltanto l'eterosessualità, in particolare la genitorialità eterosessuale. La società agisce repressivamente sui bambini tramite l'educastrazione, allo scopo di costringere a rimuovere le tendenze sessuali e che giudica perverse. L'educazione ha come obiettivo di trasformare il bimbo tendenzialmente polimorfo e perverso in un adulto eterosessuale, eroticamente mutilato e conforme alla norma. Adorno. La normatività naturale della società è ideologia e quando viene ipostatizzato come dato naturale modificabile. Non ci si deve domandare perché essere umano possa diventare omosessuale, ma perché l'educazione l'abbia portato a stabilire una differenza tra sessi capaci di procreare piacere al punto da sviluppare, a partire dall'ambivalenza assoluta dell'infanzia, un'eterosessualità esclusiva. Il pueblo unito è meglio travestito! Il pueblo unito è meglio travestito!